Letture di Radio 24. Siete bravi a cucinare? Avete un tavolo abbastanza grande? Vi sentite imprenditori? Allora aprite un ristorante segreto. Sono sempre più diffusi, non si pubblicizzano tradizionalmente, basta cercare su internet o affidarsi al buon vecchio passaparola e si trovano case private che mettono a disposizione la loro cucina e la loro ospitalità. Si prenota come al ristorante e ovviamente si paga il conto. Si prenota come al ristorante, ma c'è il gusto dell'atmosfera casalinga. Si mangia a casa d'altri, ma dopo il caffè si paga il conto. Si conoscono nuovi amici, ma si può cenare solo poche sere ogni mese. Sono i ristoranti underground o segreti. Non hanno insegne e non fanno pubblicità. Vale però la pena di cercarli, assicurano i nuovi adepti. I domicili si trovano in rete o tramite amici. Una volta scoperto l'indirizzo, si prenota via mail, tramite Facebook o con una telefonata, ed è fatta. Benvenuti nelle case private che, in date prestabilite, organizzano banchetti per ospiti paganti, più che cene, eventi. Dimore belle, centrali, di una certa atmosfera. Il pagamento è in contanti, ma per carità non si parla di conto, decisamente poco elegante. La parola giusta è donazioni, non solo. Gli invitati sono pregati di seguire un galateo ad hoc. Arrivare puntuali, non dare bidoni all'ultimo minuto e se soffrono di qualche fastidiosa allergia alimentare, avvisare in anticipo. Autentici movimenti gastronomici, nati in America e nel Nord Europa, da qualche tempo furoreggiano anche in Italia. Ritrovi per pochi, che complice la noia per tutto ciò che è normale, stanno diventando sempre più alla moda. C'è anche un'associazione, la homefood.it, che ha sdoganato dal Piemonte alla Sicilia circa 500 cesarine. Un nome in codice che richiama le vecchie tate per segnalare Madame dal pollice culinario, ma ci sono anche degli ottimi cesarini che deliziano gli ospiti con un menù fisso. La nostra è un'associazione glocale, dice Egeria Di Nallo, fondatrice e professoressa di sociologia di Bologna. Si gode di una piacevole atmosfera familiare senza le classiche liti tra parenti. I nostri soci, tutti sottoposti ad un test di ingresso, pagano una quota associativa di 35 euro, mentre gli invitati danno un rimborso spese all'associazione. Il target delle cesarine è ben definito, in gran parte donne, sale da pranzo tra i 6 e gli 8 ospiti e un gusto per la diversità. A Milano va per la maggiore la casa di Oliviero Leti, scenografo di professione, che la sua dimora, 10 stanze, l'ha arredata come un set ed organizza cene e brunch domenicali su richiesta. Ad Amsterdam la Dine with the Dutch offre a turisti e cittadini con 50 euro una gustosa cena completa dall'antipasto al dolce tipico. A Washington le serate a pagamento hanno il raffinato status di party. La prima mail d'inviti in 24 ore ha venduto il 30% dei posti a tavola. L'organizzazione americana si chiama Hush, nasce dall'idea di un ex membro della Banca Mondiale e conta su una lista selezionata di 300 indirizzi email. Le cene, tra i 50 e i 75 dollari, si svolgono solo in residenze private di Georgetown e il cuoco, dopo i primi giorni, ha commentato soddisfatto. «Pensavo ci sarebbero voluti 6 mesi per creare una rete di affezionati. Sono bastati 10 giorni». A Londra c'è The English Can Cook, gestita da un fotografo che tramite prenotazioni via mail organizza in casa propria dinner per un massimo di 5 persone. In Danimarca, con Meet the Danes, la cifra per partecipare all'ambita cena con nuovi amici si aggira sui 45 euro. A Parigi si punta sul menù prelibato. Hidden Kitchen invita 16 persone ed offre 10 menù degustazione. Raffinata padrona di casa, Elizabeth Shaw, a San Francisco, accoglie i suoi ospiti nel salotto di casa e offre piatti e vini tipici californiani. A Berlino, The Shy Chef, nel quartiere di Kreuzberg, ha già messo in rete le 5 date per gennaio. Dove? In uno splendido edificio residenziale di fine 800. Sono gradite le prenotazioni via mail e donazioni intorno ai 60 euro. A Lisbona c'è Hush Hush Garden, cucina tipica portoghese accompagnata da ottimi vini locali. Prenotazioni al telefono o via mail. Non poteva mancare Barcellona, dove con Cocoon la formula è singolare. Ogni settimana i proprietari di uno stravagante appartamento aprono le porte agli ospiti e si esibiscono per loro in una performance di live cooking. Al termine, banchetto per tutti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Il boom dei ristoranti segreti, cena in casa, ma non si sa di chi, di Irene Maria Scalise, pubblicato dalla Repubblica di giovedì 6 gennaio. Letture di Radio 24. Sono 600.000 le persone con una relazione sentimentale in Italia che vivono sotto tetti separati e non per difficoltà a trovare una casa per due o un lavoro sicuro o impossibilitati da problemi di malattia o distanza. Lo fanno per scelta. Negli Stati Uniti si chiamano living apart together, ovvero vivere insieme separati. Dall'altra parte cresce sempre di più la tendenza a formare coppie senza figli e senza nemmeno l'intenzione di averne. 20 anni fa Woody Allen e Mia Farrow davano scandalo per la decisione di vivere in due case diverse, seppure fossero una coppia con tanto di bambini. Quella storia finì come finì, con il pasticciaccio della love story del regista con la figlia adottiva di lei. Ma fatto sta che oggi in Italia ci sono 600.000 coppie che abitano sotto due tetti diversi. Amori LAT, dicono gli americani, cioè living apart together. Si vive insieme, ma separatamente. E non perché divisi dal lavoro, da necessità di salute, da problemi familiari, ma per scelta. E se le coppie DINK, Double Income No Kids, doppio reddito niente bambini, sono diventate 650.000, cresce il fronte di quelle radicalmente child free. Gente che di pargoli, pannolini e notti insonni non ne vuole proprio sapere e che furoreggia su internet con un decalogo molto spassoso che elenca le ragioni per non procreare, dal denaro ai viaggi, dal tempo libero alla forma fisica. Stima accreditata 138.000 coppie. Di sicuro il 6% delle italiane tra 20 e 30 anni dichiara di non avere alcuna intenzione di diventare madre, mentre al contrario il 40% delle coppie sterili fa di tutto per avere figli, ricorrendo a tecniche di procreazione assistita che funzionano nel 35% dei casi. Una nuova galassia di single, tendenza e nuove forme di relazione fotografata dalla psicologa palermitana Alessandra Salerno, docente di teorie e tecniche delle dinamiche familiari e di coppia all'Università di Palermo, nel volume Vivere insieme, da poco pubblicato per Il Mulino. Il compendio di anni di indagini svolte in un team di ricerca guidato da Angela Maria Di Vita, docente di psicologia clinica. Mirate a rispondere a una domanda cruciale. Quali sono le nuove forme di famiglia? Fino a pochi anni fa, dice la Salerno, superata l'età del fidanzamento, esistevano tre grandi categorie entro cui identificare un individuo: single, convivente o coniuge. Adesso lo scenario si è fatto molto più complesso. È molto più difficile perché paradossalmente la debolezza del matrimonio contemporaneo è che mette a fondamento l'amore con tutte le sue attese e le sue fragilità. Due o tre generazioni fa erano altre le basi su cui costruire l'unione coniugale: fuga dalla famiglia d'origine, rispettabilità sociale, figli, stabilità economica. Ecco allora che, superato il modello di unione tradizionale, si fanno avanti le nuove forme di relazione, a partire da quelle a distanza su cui, oltre a LAT, si sprecano le definizioni. Coppia del weekend, a coabitazione intermittente, a convivenza alternata, con doppia residenza, amore pendolare, amore a distanza, amore part-time. Le nuove tecnologie, insieme alla diffusione dei voli low cost, dice Salerno, consentono oggi di accorciare le distanze e di mantenere una forma di condivisione della reciproca quotidianità anche a distanza di chilometri. Dalle indagini risulta che la distanza fisica non coincide con un allontanamento affettivo. Sono tre le macro categorie di chi sceglie due cuori e due capanne: quelli che escono da un'esperienza matrimoniale con le ossa più o meno rotte e non vogliono ripetere l'esperienza, gli indecisi che non si sentono mai pronti al grande passo di mettere insieme libri e pantofole, e infine gli ex conviventi che si sono presi la famosa pausa di riflessione durante una crisi e hanno scoperto che a distanza funziona meglio. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Tutti insieme separatamente di Laura Anello, pubblicato dalla Stampa di giovedì 6 gennaio. Cervelli in fuga che non dimenticano l'Italia. Un gruppo di ricercatori italiani che lavorano all'Università di Manchester hanno deciso di fare una classifica dei migliori atenei italiani nel campo della ricerca. Cosa hanno scoperto? Secondo i loro criteri, è stato rilevato che la migliore ricerca scientifica si fa nelle università pubbliche del nostro paese. Sentiamo meglio di cosa si tratta in questo articolo tratto dall'Unità. In Italia la ricerca più qualificata si fa nelle università pubbliche piuttosto che in quelle private. È lì, nell'università statale e nei centri di ricerca sempre pubblici, che si concentrano i migliori cervelli italiani. A contarli, scoperta per scoperta, pubblicazione per pubblicazione, sono stati alcuni cervelli in fuga che da Manchester hanno stilato una classifica dei centri di ricerca italiani, scegliendo come criterio di valutazione il numero e la qualità delle pubblicazioni scientifiche. 7 dei primi 10 classificati sono atenei pubblici. In testa l'Alma Mater di Bologna, seguita dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall'Università Statale di Milano. L'Università di Padova si classifica quarta, quella di Roma, La Sapienza, si colloca al quinto posto, seguita dalla Statale di Torino, sesta, e dall'Istituto Nazionale di Astrofisica al settimo posto della classifica. I primi due istituti privati sono l'Ospedale San Raffaele e l'Istituto Nazionale dei Tumori, entrambi milanesi, rispettivamente ottavo e decimo classificato. In mezzo, un'altra università pubblica, quella di Firenze, che si classifica nona. Altre due illustri università private, la Cattolica di Roma e la Bocconi di Milano, si collocano rispettivamente al 38° e al 39°. Scorrendo la lista dei primi 50 atenei, le università private sono soltanto 11, le altre sono tutte strutture pubbliche. All'11° posto si trova l'Ateneo di Pisa, seguito dall'Istituto Mario Negri e dagli Atenei di Ferrara, Napoli e Genova. La Normale di Pisa è 22°, il Politecnico di Milano 47°. La classifica stilata dai ricercatori italiani fuggiti a Manchester è una delle iniziative dell'Accademia da loro creata. In inglese, Virtual Italian Academy, VIA. Una sorta di network pensato per valorizzare il sapere made in Italy e promuovere anche nella nostra penisola la cultura del merito. Per esempio, scegliendo come criterio per valutare ricercatori e strutture il numero e il rilievo delle pubblicazioni. Il criterio di valutazione, osservano dalla stessa università Alma Mater di Bologna, che pure si è classificata prima, ha alcuni limiti. La classifica stilata, infatti, assomiglia a una sorta di work in progress. Gli studiosi considerati e valutati fin qui sono solo quelli rintracciati dai colleghi di Manchester. E la classifica, aggiornata in tempo reale, potrà via via perfezionarsi e completarsi man mano che altre persone si aggiungeranno a quelle fin qui considerate. Altro limite è che l'indice H privilegia chi ha una lunga carriera alle spalle. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Ricerca, i cervelli migliori lavorano negli atenei pubblici, di Maria Grazia Gerina, pubblicato dall'Unità di giovedì 6 gennaio.